Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Giacobbe di Academy 2 che distribuisce il film Foxtrot di Samuel Maoz in uscita giovedì 22 marzo. Alessandro, ben ritrovato. Grazie mille, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ci racconti un po' brevemente questa storia? Beh, diciamo che è un film strutturato sul classico della tragedia greca, quindi ci sono tre quadri che vengono sottoposti appunto allo spettatore, tre momenti di narrazione che partono da un equivoco che nasce dalla comunicazione da parte dell'esercito israeliano a una famiglia della morte del figlio che è in distanza appunto a un posto di guardia dell'esercito israeliano. Si scoprirà presto che in realtà il figlio non è morto, ma si è trattato appunto di un errore, e da lì si svilupperà poi tutta la narrazione, in quanto la famiglia chiederà all'esercito israeliano, comunque dopo questo tragico errore che ha comportato comunque momenti drammatici nell'ambito della vita familiare, di riportare a casa il ragazzo che è sotto le armi. Non svelo altro perché ci saranno poi appunto colpi di scena durante il film, e quindi diciamo che l'incipit è questo. È molto interessante poi la nota registica e lo stile di Maoz, che già l'aveva fatto apprezzare al pubblico con il suo film Lebanon, che era stato premiato con Leone d'Oro a Venezia alcuni anni or sono, e anche questo film a Venezia ha avuto un grosso riconoscimento, il Gran Prima della giuria, che dopo il Leone d'Oro è il premio più importante. Alessandro, cosa ti ha convinto maggiormente in questo film? È un film, ripeto, molto di impatto dal punto di vista estetico e registico, e poi la vicenda è una vicenda che lascia il segno, naturalmente è un film che coinvolge emotivamente, e quindi abbiamo pensato fosse assolutamente in linea con la nostra politica editoriale di Academy 2 e abbiamo sposato l'idea di portarlo nelle sale italiane. Senti, per Samuel Maoz, ricordavi Lebanon, in Italia sono questi due i titoli, suoi che abbiamo conosciuto. Che io ricordi direi di sì, Sì. E non ho memoria di altri film suoi arrivati nelle sale italiane. comunque si tratta di uno dei registi israeliani, di maggior, talento a livello internazionale. Assolutamente, assolutamente, direi che nonostante in alcuni casi non si sia del tutto allineato, diciamo, con la politica del suo paese, ha avuto anche qualche contrapposizione dal punto di vista proprio politico, e anche questo, se vogliamo, è un film parzialmente di denuncia anche del sistema israeliano, però direi che dal punto di vista artistico è assolutamente fuori discussione. Tra l'altro rappresenterà proprio Israele agli Oscar. Sì, in realtà era stato Era stato. selezionato per rappresentare Israele agli Oscar, non è arrivato nella cinquina Non è. finale, però era stato proprio proposto da Israele all'Academy per concorrere al premio finale. Senti Alessandro, come sarà l'uscita? Quante copie? Il film uscirà in 40 sale italiane, in particolare questa sera all'Anteo di Milano ci sarà un'anteprima con Joelle Dix, che oltre ad essere un bravissimo attore di teatro, è anche un doppiatore, e lo scopriamo in questa veste in quanto doppia e appunto protagonista del film. Oggi lo incontreremo, spiegherà il perché ha voluto anche fortemente doppiare questo film per le sue affinità anche religiose al film, appunto essendo Joelle Dix un praticante ebreo, quindi di religione ebraica, e quindi ha avuto un coinvolgimento anche emotivo forte al film. Allora, ricordiamo Foxtrot di Samuel Maoz in uscita in sala il 22 marzo per Academy 2. Un saluto ad Alessandro Giacobbe, ci si sente presto. Grazie mille ancora dell'invito e un saluto a tutti.